Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Il baricentro del mondo sta tornando verso l'Asia, dove si è trovato per molti secoli e ha soggiornato, insomma, fino a prima della rivoluzione industriale. Così anche il traffico internet sempre più proviene e va in direzione dei paesi asiatici, e questo comporta la necessità di ridisegnare alcuni degli snodi principali di questo sistema che utilizziamo tutti i giorni senza ben sapere come funzioni, che appunto chiamiamo la rete. E questo momento di così cambiamento può rappresentare un'opportunità per il Sud Italia, che tante volte abbiamo descritto, soprattutto la Sicilia, come una sorta di base stabile presente nel centro, nel Mediterraneo, che può fungere da snodo. Si è parlato spesso, per esempio, del ruolo del Sud Italia e della Sicilia come hub del gas. Beh, potrebbe diventare forse la Sicilia anche un hub della nuova internet. Questa è senz'altro convincimento di Retelit, che è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, e qui con me c'è l'amministratore delegato di Retelit, Federico Protto. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, intanto abbiamo parlato di traffico dati che si sposta verso l'Asia, proviamo a dare qualche numero per cominciare. Ma le stime prevedono che il traffico globale di internet dai 6,8 exabyte, che è un numero pazzesco, cioè un numero con 18 zeri, sulla destra, passerà nel giro di 3 anni, nel 2019, a 24,3, per un valore complessivo del business di questa attività di circa 142 miliardi di dollari, solo la parte traffico. Il grosso di questa crescita, di questa esplosione, come stava dicendo, 45% avverrà in Asia, da e verso l'Asia. E qui ci può essere un ruolo del Sud Italia come hub per distribuire questo traffico verso l'Europa, se ho ben capito. Intanto, ecco, da dove a dove e perché il Sud è già adesso candidato a svolgere questo ruolo? Ma nel Sud Italia, sia in Sicilia che in Puglia, atterrano circa una ventina di cavi sottomarini che arrivano dalla parte nord dell'Africa e in generale dalla parte est del Mediterraneo, e quindi tutto il traffico che arriva dal cosiddetto Medio Oriente, Middle East, ma anche dall'India e dal Far East, quindi Giappone, Singapore e Cina, nonché paesi emergenti come la Cambogia, il Vietnam e il Myanmar, eccetera, passa e dovrà passare assolutamente attraverso il Mediterraneo, in cui il punto centrale non è che il Sud Italia. Attualmente però questo traffico dov'è che viene smistato per l'Europa? Ma principalmente almeno il 70% di questo traffico a oggi non atterra nel Sud Italia, ma atterra a Marsiglia. Nonostante i cavi che collegano il Sud Italia ci siano, ci certo, siano assolutamente, già, come abbiamo detto, una ventina di cavi e anche infrastrutture. Ecco, quindi insomma ci sono i cavi. Cosa bisogna creare affinché il Sud Italia, la Sicilia in particolare, diventino un hub? E poi spieghiamo anche perché bisognerebbe farlo questo, che modelli di business si possono nascere intorno a un'eventualità di questo tipo. Ma certo, ma sicuramente la prima cosa è potenziare anche l'infrastruttura, perché il cavo sottomarino arriva sulla spiaggia, ma poi da lì deve in qualche modo il traffico essere veicolato verso data center, perché poi alla fine il dato deve essere, oltre che trasportato, anche elaborato, anzi principalmente viene prodotto per poi essere elaborato e trasformato, nonché distribuito. E per fare questo c'è bisogno anche di infrastruttura terrestre sul territorio nazionale, che poi prenda questo traffico e attraverso i data center lo veicoli verso il nord dell'Italia, ma anche verso il nord dell'Europa, eccetera. Ed è questo che oggi c'è a Marsiglia, per capirsi, che non c'è invece nel Sud Italia. Certo. Ecco, veniamo quindi, lei ha parlato di una cifra abbastanza impressionante prima, 145 miliardi, se ricordo bene, che è il valore delle economie legate allo stesso traffico. Cioè non stiamo parlando del fatto che lì sopra Amazon ci ha venduto, non so, una confezione di pannolini, ecco, stiamo parlando del valore che i vari operatori di questo sistema si scambiano per tenere in piedi il sistema. Certo. Allora, le chiedo in che modo questi valori che si scatenano sulla rete possono ricadere sul territorio che è in grado di intercettare questa attività di hub. Ma dunque, secondo me abbiamo tre livelli di ricaduta. La più ovvia è quella legata a quanto dicevamo prima, cioè la creazione dell'infrastruttura. Viene creata un'infrastruttura che per definizione, benché qua stiamo parlando di mondi virtuali, ma sono tutto meno che virtuali perché sono fibre ottiche che in qualche modo vengono posate o sul fondo del mare o nel terreno e quindi scavate con qualcosa che è molto più simile alla old economy, economy. E quindi questo è, diciamo, l'attività più c'è una parte evidente. Proprio infrastrutturale, costruire i data server, costruire, potenziare, raddoppiare le linee, fare tutti i sistemi di, no? Certo. RAID, come si dice, per fare la copia dei dati, insomma c'è tutta questa parte qua. Certo, che è la parte infrastrutturale, diciamo così. Il secondo livello è quello di, a fronte di infrastrutture di alto livello, quindi performanti, moderne e diciamo ad altissima capacità, sia per quanto riguarda la trasmissione che per quanto riguarda l'elaborazione, la possibilità di ospitare nella zona, quindi in questo caso nel sud Italia, i contenuti che sono, diciamo così, il maggior driver del traffico mondiale, la cui crescita avevamo ricordato poco prima, che sono in qualche modo prodotti veicolati dai grandi nomi che conosciamo, ecco, tutti. Ecco, e nonostante la rete sia globale, ha ancora senso il concetto di vicinanza geografica, cioè questi potrebbero venire nel sud Italia perché in realtà star vicini ai clienti ai quali tu vuoi erogare questi contenuti è un vantaggio. Certo, un vantaggio in termini di qualità, in termini di sicurezza, sia perché più sei vicino e più probabilmente hai un numero limitato di, tecnicamente li chiamiamo OPS, cioè di passaggi intermedi, poi li spieghiamo. Mm-hmm. Di passaggi intermedi, e più sono vicino e quindi più i tempi di risposta sono veloci. Di conseguenza il Sud Italia, da un punto di vista dei contenuti, può essere il punto ideale per servire mercati in grandissima espansione, quali quelli del Nord Africa, quali quelli del Middle East e in generale tutta la parte est del Mediterraneo. E poi c'è anche però un terzo livello che forse più così nebuloso, ma è anche quello col più elevato potenziale. Certo, potremmo dire anche più divertente, perché una volta che infrastruttura è di altissimo livello, quando i contenuti e tutto quello che gira intorno ai contenuti è localizzato, è chiaro che automaticamente possono nascere startup, attività di digital economy, fino naturalmente alle smart cities, che trovano in questi ecosistemi l'ambiente ideale per poter nascere, crescere e di conseguenza avere delle ricadute pazzesche sull'area. Dunque, abbiamo già anticipato forse qualche elemento della risposta alla domanda che sto per farle, perché noi tutti come utenti di internet siamo un po' degli utenti, chiamiamo così, ignoranti, cioè non abbiamo bene idea di come funzioni il sistema là sotto. Allora vorrei provare a spendere l'ultimo minuto e mezzo che abbiamo proprio su questo tema. Vorrei che lei ci aiutasse a capire qual è di fatto il modello di business che tiene insieme la rete. Noi siamo abituati ad andare a prendere qualunque contenuto da qualunque parte del mondo, ma in mezzo ci sono diversi operatori che devono fare qualcosa, per fare questo qualcosa vorranno essere remunerati. Allora, più o meno come funziona? Ma il modello è un modello in realtà abbastanza semplice nella descrizione, piuttosto complesso nell'implementazione. Cioè internet, per come la pensiamo noi, in realtà non è la rete, noi la chiamiamo la rete, magari addirittura con la R maiuscola, ma in realtà è tutto un insieme di reti che sono interconnesse attraverso i protocolli IP che ben conosciamo. Queste reti tecnicamente le chiamiamo autonomous system e che sono gestite da operatori diversi, operatori a livello nazionale, a livello mondiale. Ogni operatore ha in qualche modo attaccato i loro clienti finali. Io sono attaccato a una rete di un certo operatore e voglio fare le mie attività di e-commerce per esempio su Amazon, ma io fisicamente, per arrivare al server di Amazon, devo passare attraverso diverse reti. Quanto più sono questi salti, e tanto peggiore sarà la mia esperienza. Allora, sia il mio operatore che Amazon stessa hanno l'interesse a connettersi direttamente, così l'utente Federico Protto ci mette molto meno e è molto più felice con questa esperienza. Per cui gli operatori che si interconnettono hanno interesse e diverse forze di mercato per interconnettersi agli altri. Se io rappresento come operatore il 30% degli utenti mondiali, è chiaro che molti altri operatori avranno interesse a collegarsi con me, però per fare questo io probabilmente qualcosina farò pagare. Quindi tutto questo scambio è quello su cui si regge sostanzialmente la rete e il modello economico che ci sta dietro. Grazie Federico Protto. Grazie, grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. A voi tutti, buona serata.